L'affermazione del Made in Italy all'estero passa anche per la cultura. Ci sono paesi dove si è risvegliata l'attenzione per la nostra letteratura, uno di questi è la Russia. Se nel 2001 vendevamo solo 36 diritti, nel 2010 ne abbiamo ceduti 217. Fra il 2000 e il 2010 sono stati tradotti in russo 366 autori italiani. I più famosi sono Eco e Baricco. E ora a Mosca si trovano i 5 finalisti del premio Strega, perché da quest'anno l'Istituto Culturale Italiano a Mosca fa parte della giuria. Una decina di intellettuali russi che parlano italiano ha diritto ad un voto collettivo. E così portare gli scrittori dello Strega a Mosca è un modo per far conoscere meglio i nostri autori, come spiega uno dei finalisti, Gianrico Carofiglio. Beh, spero di sì, insomma, la ragione per cui andiamo lì dovrebbe essere questa. Poi non ci sono mai, come posso dire, degli effetti diretti, causa ed effetto immediata, però il fatto che circoli l'idea di una nuova letteratura italiana che si muove, che va all'estero, che incuriosisce non soltanto il pubblico italiano, beh, credo che sia alla base di questa iniziativa. Io sono, diciamo, fiducioso e comunque mi fa piacere di andarci. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mosca.